Luca capitolo 9, versetto 37 e seguenti riguarda un miracolo fatto da Gesù che gli era stato richiesto da un papà che gli ha presentato suo figlio strapazzato dal demonio. Ma questo è uno dei brani che alcuni sacerdoti portano come testimonianza che non c'erano indemoniati, ma che questo era un epilettico, perché la descrizione è proprio da epilessia, no? Si mette a gridare, lo scuote, provocandogli bava alla bocca, lo lascia sfinito. Io ho provato a vedere qualcuno preso d'attacco epilettico, è così. Ma questo non vuol dire che sia solo epilettico. Perché non devo credere al Vangelo se mi dice che lo libera da questo spirito demoniaco, da questo spirito impuro, da questo demonio? Questo per dire come tante persone, anche sacerdoti, non credono all'azione esorcistica di Gesù. E non credono all'azione esorcistica della Chiesa. Non è facile per me fare l'esorcista, perché certe volte devi trattare anche con una superficialità, una sufficienza di tuoi amici preti, che quando ti vedono, invece di salutarti, dicono: allora come vanno i tuoi diavoli? Modo tipico superficiale di accostare il tema. Io invece, dopo questa premessa, volevo chiedervi delle preghiere, perché anche qui si vede un papà che presenta un figlio. Sapeste le decine di casi in cui le mamme in genere si fanno vive o di persona o telefonando parlandomi di figli di tutte le età. Dal bambino di 3 anni all'uomo di 54 anni, perché veramente nelle famiglie c'è tanto patimento anche per questi casi. E d'altra parte, il passo parallelo di Marco, capitolo 9, versetto 29, dice: questa specie di demoni non si può cacciare in alcun modo se non con la preghiera. Allora io vi chiedo, cari amici, pregate per gli esorcisti, pregate anche per me, perché siamo assaliti da un carico di lavoro impensabile. Per dirvi, io sono stato via 10 giorni al mare, sono tornato a casa, ho aperto il computer. Ho guardato la posta elettronica, avevo 380 lettere elettroniche che mi sono arrivate. Sapete cosa vuol dire 380? Farle passare una a una, scartando quelle che erano di pubblicità, quelle che erano, ma sono tante. Arrivavano da tutti gli angoli d'Europa, non solo d'Italia. E io mi sono preso l'impegno di leggerle tutte. Qualcuna un po' sbalestrata non ho risposto, ma ad altre ho risposto e poi non posso riceverli tutti. Faccio anch'io smart working, cioè anch'io da casa col telefono, con WhatsApp, magari delle videochiamate, contatto queste persone per una preghiera, per una benedizione. E ho bisogno delle vostre preghiere perché per resistere a due tentazioni. Primo, la tentazione di accettare tutti e non dire di no, che questo poi ti stronca. E secondo, la tentazione che è espressa molto bene dal servo di Dio, Cardinal Schuster, quale diceva questa frase: quando il diavolo vuole rendere inutile qualcuno, lo fa lavorare troppo. Che io non cada in questa tentazione, grazie anche alle vostre preghiere.